Il punto di Stefano Folli. Erano ormai in tanti nel centrodestra a chiedere a Berlusconi di formalizzare il ritiro dalle competizioni elettorali e ora tutti, da Alfano al leghista Maroni, sono contenti. Ma il binomio PDL-Lega, che ha dominato per anni l'Italia politica, oggi pesa insieme e non c'è ancora una nuova alleanza tra il 21 e il 24% dei voti, troppo pochi davvero. Ma proprio queste cifre così modeste hanno determinato senza dubbio la scelta ufficiale di Berlusconi. La sua presenza sulla scena pubblica non era più un catalizzatore del consenso, ma un fattore respingente. Resta il fatto che il centrodestra oggi è una barca alla deriva e non basteranno le primarie organizzate in fretta per metà dicembre, a imitazione del centrosinistra, a colmare il vuoto. Tuttavia non c'era altro da fare. In attesa di un nuovo Berlusconi, che non c'è e non ci sarà, si tratta di organizzare l'esistente. Tanto più che l'area moderata, un leader potenziale, e si intende tutto virtuale, l'area moderata l'ha già trovato nel profilo europeista di Mario Monti.